John Fox, che con questa ambientazione chiude una prima parte del suo ultimo disco, e tra l'altro abbiamo ascoltato proprio in unione a Aphex Twin invece un momento decisamente invece tecnoide, d'altronde ritorno anche da uno dei padri di quel suono, visto che Fox già con Ultravox sperimentò quello che era il primo momento della wave che si stava in un certo qual maniera insomma prefigurando come anche riflessione sull'uomo e la macchina e anche sulla carne, la macchina e viceversa. Non è un caso insomma che questo disco sia dedicato a Ballard, un disco anche che prevede questo in collegamento anche con Car Cater, un discorso video anche piuttosto interessante. Insomma, se fate un giro insomma su internet potete vedere anche proprio le composizioni video proprio di John Fox, che un po' come Aphex per un bel po' di anni dopo i dischi importanti con Ultravox e con quella wave appunto mutante, anzi quel punk, perché se pensiamo insomma ai primissimi Ultravox non si può che non citare quel momento che era tra glam e primi sentori del punk. Per molti versi furono anche iniziatori in questo senso, e loro ad esempio influenzarono molto David Sylvian nel primo periodo, con anche lui questo connubio senz'altro meno riuscito del magistrale percorso di Fox insieme agli Ultravox, però di fatto, insomma, questa mutazione che stava avvenendo dentro un linguaggio musicale che si sarebbe trasformato appunto in visione macchinica, in una visione futuristica del suono, e le grandi invenzioni legate al technopop, che poi magari saranno anche svilite nel corso degli anni Ottanta da molto commercio legato a quelle musiche, e quindi anche quella perdita di quell'attitudine, quell'atteggiamento sonoro legato appunto a un futuro prossimo, un futuro prefigurato tante volte da Fox, se pensiamo anche alla sua carriera solistica, dischi fondamentali come Metamatic, dove c'è proprio anche già in copertina questo tentativo di entrare dentro un monolite lucente, quindi anche tutto questo gioco di specchi con un'idea non soltanto più fantascientifica, utopica, come l'aveva vista Kubrick in 2001, oppure Tarkovsky in Solaris, ma anche un'idea distopica della faccenda, se pensiamo appunto a Metamatic, che uscì nell'80, in lavorazione Blade Runner, e soprattutto un viatico sonoro che si interrompe proprio nell'85, poi un momento forse minore, più basso del technopop, quando stava svilendo tutto, per poi ricostruirsi, addirittura rifondarsi poi dentro molte delle tecnomanie che iniziavano appunto in quel periodo, ma erano ancora sconosciute di più. Tant'è che Fox tornò proprio alla fine degli anni 90, in un momento insomma in cui la techno era all'apice, con dischi influenzati appunto da quel periodo, da quel percorso, come quasi a riallacciare un momento insomma storico che per 13 anni insomma l'aveva visto assente dalle scene, poi un connubio meraviglioso con Errol Budd per dischi di grande ambientazione, e anche in questo ultimo disco dedicato a Ballard, non a caso appunto prima citavo la carne nella macchina, la macchina nella carne, proprio come la distopia di Ballard ci ha portato insomma a vedere attraverso certo Cronenberg, o a leggere appunto attraverso i suoi romanzi eccezionali. B-Movie, quindi Ballard Video Neuronica, ultimo disco e compimento per molti aspetti di un percorso che si può definire, perché no, eccezionale di John Fox, anche egli grande autore che riecheggia se stesso, echeggia mondi cyborg che ha sempre cercato. Ecco, sì, c'è stato un piccolo problema tecnico. Niente, e praticamente adesso dobbiamo invece presentare, dopo questo vero e proprio viaggio attraverso Aphex Twin e John Fox, di nuovo, diciamo, una colorazione invece più legata a un'idea dell'eco dal passato, attraverso un percorso sonoro di rimandi, di immaginazione, di fotografie rispetto al passato, non solo sonoro ma anche appunto inteso a tutto tondo. E parliamo di Jan Werner, uno degli elementi fondanti di Mouse on Mars, che ha portato avanti altri progetti collaterali e anche dei lavori singoli proprio personali, come il disco che andremo adesso a presentare, uscito nel 2013, Blaze Color Barn, uscito per la Trill Joke, un lavoro estremamente affascinante per le atmosfere sonore che attraversano echi della memoria del passato, ma anche echi forse di mondi che lo stesso Werner si immagina, attraverso una sorta di collage di atmosfere legate sia alla contemporanea che all'ambient, e anche i suoni più strettamente legati anche a una certa techno più sperimentale e ambientale, che lo stesso Werner ha attraversato attraverso vari progetti, scusate il gioco di parole. E la cosa anche interessante nelle due piccole tracce che andremo ad ascoltare da questo lavoro è il riferimento anche a certe dimensioni concretiste che abbiamo anche sentito poi poc'anzi proprio in John Fox, in questa in questo percorso, in questo il recording, sì, sì, questo suono di piano estremamente ricco di suggestioni, non solo legate a Satie ma a molti pianisti minimali che hanno attraversato il Novecento, con nel sottofondo questi suoni concreti ambientali che appunto riecheggiano l'approccio tipico della field recording e che ascolteremo anche dentro il lavoro di Werner, seppur in una coloritura differente. Andiamoci dunque a ascoltare queste due tracce, oltretutto con dei nomi abbastanza particolari come Piazza Corale B e Sierra Beacon, e ce l'andiamo a sentire appunto da Blaze Color Barn. su questo suono, su queste sonorità che rimandano moltissimo anche a certe atmosfere abbastanza recenti, ricordano certa elettronica anni 90 molto, molto fortemente, un certo glitch più avanzato con questi suoni sottesi, molto caldi bisogna dire, sicuramente meno scuri dell'inizio della nostra puntata, dove il suono sicuramente nei primi due album mandati in onda erano sicuramente più inquietanti, qua siamo in un'atmosfera sicuramente tra il sognante e il misterioso, che il personaggio che abbiamo già presentato e che rappresenta un pezzo importante della storia proprio degli anni 90, di una certa elettronica che abbiamo spesso attraversato come 451, siamo nati proprio con, anche attraverso i Mouse on Mars, e Jan Werner appunto con Blaze Color Barn. In questo brano in particolare riesce molto bene a richiamare quel tipo di atmosfera sonora. E da Jan Werner ci spostiamo verso altri orizzonti musicali, altre terre, altre lande. Lande sicuramente comunque suggestive per l'atmosfera degli echi del passato. Sì, beh, qua gli echi si fanno non più come dire legati a un proprio percorso sonoro, quindi fateci passare i termini autoreferenziali, no? Se abbiamo parlato di echi e di rimandi all'interno degli stessi lavori di Aphex Twin, di John Fox, di Jansen Werner, ricordava veramente tanto Microstoria, ad esempio, uno dei progetti di Mouse on Mars insieme a Marcus Pop di Oval, altra momento eccezionale degli anni 90, soft metal, giovane duo americano con questo grande amore per certi anni 70, inizi anni 80, quindi quelli legati alla cold wave, al synth punk, al dark elettronico di certi chrome, magari virati più su quelli suggestioni anche romantiche, però sempre appunto cyborg di certo Gary Newman, o di, perché no, di certo anche John Fox, un rimando che sicuramente c'è dentro le musicalità di soft metals, o certo techno pop che poi andava a virare anche in certi momenti verso gli indie industrial. Il pezzo che andiamo a prendere da Lenses, disco anche piuttosto citato per quanto riguarda un certo appunto recupero di quella cold wave che è tornata in maniera più o meno sotterranea anche ai nostri giorni, e Interobserver, proprio un osservare appunto interno dentro le musiche, dentro il synth e dentro appunto le elettroniche si sviluppavano appunto tra gli anni 70 e gli anni 80, due decenni fondamentali per le elettroniche e tutte, perlomeno per quanto riguarda appunto quelle pop. Thank you. siamo rientrati in diretta e abbiamo ascoltato in una sorta di mix, speriamo riuscito il meglio possibile, dopo i soft metals abbiamo attaccato, non con la colla ma in maniera abbastanza mi sembra fluida, un progetto che insomma è tutto un programma, nel senso che non si sa assolutamente nulla, di notizie su questo progetto sono praticamente inesistenti e abbiamo soltanto la notazione del nome Beauclerk, l'album omonimo Beauclerk uscito nel 2011, edito per un'etichetta Pampaet Records, di cui non si sa nulla neanche di questa, ha prodotto solo questo disco e il performer che abbiamo sentito, il sax in questo caso in circolo, no? In questo loop assolutamente ipnotico e assolutamente ben riuscito anche a livello di effetto sonoro e anche l'utilizzo di delay, di echi assolutamente perfetti, di un certo James Bradley, che abbiamo scoperto anche lui è assolutamente inesistente il personaggio, dunque probabilmente quello che abbiamo verificato è che sia Beauclerk, che ad esempio era un duca negli anni 1700, intorno al 1700, un duca d'Albans in Francia, e lo stesso James Bradley abbiamo scoperto che è un altro personaggio che è vissuto nel periodo del 1700 per dunque un eco dal passato vero e proprio in questo caso, oltre alla bellezza del brano che è assolutamente interessante, ma c'è appunto un riferimento chiaramente storico e sicuramente un'idea situazionista assurdista molto molto vicina alle cose paradossali costruite ad esempio da gruppi per noi importantissimi come Residence, ma non solo, e si muovono sicuramente su questo orizzonte, però è stato divertente inserirlo in questo contesto e soprattutto collegato ai soft metals e soprattutto Max collegato al personaggione. Sì, un personaggione che abbiamo trattato per vie traverse quando abbiamo voluto così omaggiare certi anni 70 italiani, un personaggio che è stato un motore incredibile anche per le musiche sperimentali appunto in quel decennio, stiamo parlando di Franco Battiato, mi sento sempre un po' come dire tipo la non so, la RAI, insomma, da qualche altra parte, insomma un po' più grossettina di Radio Città Fujiko, senza togliere, anzi no, assolutamente, mettendo un in più a questa piccolezza che piccolo però grande, in questo caso Franco Battiato torna con uno strano esperimento, Giopetti Experimental Group, forse un nome altisonante, ma che poi gioca su un Battiato che negli anni 70 così percorreva, dopo tra l'altro un momento anche legato al melodismo, oppure ai primi periodi beat, a Milano della fine degli anni 60, che ad esempio vedeva anche muoversi i Ribelli, che poi diventarono insomma gli Aria, no? Quindi quel beat che si stava trasformando. Franco Battiato iniziò con dischi come Fetus Pollution per elaborare un discorso che diventò sempre più complesso fino a toccare punte eccezionali come Click con il suo Volo Cosmico, oppure L'Egitto prima delle sabbie, disco eccezionale di grande ispirazione con quel suono minimalista che però aveva sempre quello strano odore che in tutte le musicalità di Battiato c'è sempre stato, anche quello degli anni 80, quando appunto si è voluto aprire al pop e ha creato anche un immaginario assurdo, se vogliamo, un testi che erano impensabili per quegli anni, per un ex insomma degli anni 70 sopravvissuto, che anzi stava dettando un nuovo modo di concepire il pop, tant'è che per buona parte degli anni 90 vivrà di rendita con formazioni che soprattutto lo omaggeranno, insomma, e per molti versi insomma i dischi che hanno portato fino ai nostri giorni con riecheggiamenti, ecco qua torna la faccenda degli echi del passato, usato, tornerà sulla, addirittura sulle prime mosse con Fleur, ad esempio, proprio quelle del di un certo melodismo di matrice beat o di cantautorale più generalista, con dischi che hanno cercato, insomma, di aggiornare i tempi di Franco Battiato, parzialmente riuscendoci, perdendosi molto, disperdendosi. Questo disco recupera un po' quel linguaggio psichedelico freak del primo periodo di Franco Battiato, quello di Fetus e Pollution, non quello dei primissimi singoli, insomma, e ritrova anche quel momento, insomma, molto sui generis, in termini sperimentali. Joe Pattis poi è un suo parente emigrato negli Stati Uniti, chissà, questa è la nostra interpretazione. L'ho trovato, infatti anche prima ci chiedevamo se lo sarà inventato una cosa molto frichettona, anche il nome Joe Pattis Experimental Group. In realtà Joe Patti, ho trovato adesso delle notizie, è un suo lontano parente emigrato in America. Giovanni Patti, Giovanni Patti, qualche sicolo, come tanti, insomma, siciliani, meridionali, ma non solo, insomma, visto che è una terra di grande emigrazione quella italiana. Poi vabbè, ce lo siamo un po' scordati nel corso degli anni, è strana sta cosa, vabbè. Ci porterebbe lontano questo discorso, ma tant'è che, insomma, con le sue, insomma, sempre derive, Battiato, con questi suoi giochi tra sense e no sense, crea questo esperimento che è parzialmente riuscito. In questo senso, così omaggiamo un personaggio che, come appunto, seppur molto lontanamente, è Afex, però sicuramente tutte e due riprendono appunto una loro fase della loro carriera, se non addirittura il momento forse focale per quanto riguarda Battiato, quello sperimentale, appunto, quello più forte, più eccezionalmente, insomma, musicale, in termini appunto di importanza sonora, di sperimentazione. E riporta su se stesso, però in una maniera anche così abbastanza frugale, si potrebbe dire, tant'è che certi momenti si perde anche con momenti quasi di Cubase, in questo tentativo di fare una techno, una un po' demo, no? Un po' demo, E poi invece momenti di grande ispirazione, quando torna il Battiato delirante, quello per un momento ci dice le pareti del cervello non hanno più finestre, è come un branco di lupi, cioè veramente deliri di poesia che squarcia anche certo appunto sense, no sense, questo gioco, insomma, anche al massacro linguistico che ha fatto per tanti anni Franco Battiato. Sì, cioè questa super pernacchia di Battiato, che è giochicchia, secondo e me ce lo andiamo a sentire dopo sta pernacchia. Già anche lunedì nel 451 intersezioni andavamo a botta di pernacchie digitali, chissà se le sentiranno. Questo è un bel punto di domanda, magari ce lo dite, se ce lo dite, ci chiamate o ci mandate un piccione viaggiatore, così lo sappiamo. Alcuni momenti di Joe Patti Experimental Group. shall come. Well, Kelbu Shara Asiru. Menya Ataka. Lahul jaza al kathiru wa man ashik hakan yashka lasyama yameiru. Iram kuliebel muanna Battiato l'abbiamo sentito con alcuni momenti, probabilmente anche quelli di maggiore ispirazione anni 70, questi momenti tra cosmicheggiamenti e psichedelia, insomma, che hanno attraversato la carriera di Franco Battiato negli anni 70. Abbiamo tra l'altro in sottofondo già quei momenti, insomma, che prima scherzosamente chiamavamo un po' vicini ai demo di Cubase. Però vabbè, non ce ne voglia Franco, anzi li vogliamo proprio bene per anche questi momenti. Beh, un personaggio inquieto è quello che poi ci piace, insomma. Poi si possono pure sbagliare i dischi, ma forse è bene che riniziamo a sbagliare senza avere troppi problemi, troppe paranoie, piuttosto esatto. Di far dischi patinati, perfettini, no, che non valgono niente. Ma no, ma in generale io dicevo anche sbagliamo proprio nella vita, serve, okay? Infatti serve. Sbagliamo nel senso che ci proviamo, poco coraggio non ha portato a niente, anzi a stamunnezza, insomma. A stamunnezza, bravo. vediamo un po' di riprendere, insomma, anche quella voglia di sperimentare, appunto, tout court, e poi se si sbaglia o la va o la spacca. L'abbiamo sbagliata, però ci abbiamo provato. Ebbene, anche noi ci abbiamo provato. Noi ci proviamo sempre. Adesso ormai a 5, 6, 7 minuti, anzi 6 minuti dalle 2, andiamo a presentare l'ultimo progetto di questa serata di Echi del Passato. Si tratta di Locust, progetto che ci ha sempre lasciato un po' perplessi, soprattutto nei primi lavori che sono stati prodotti a nome Locust. Però quest'ultimo lavoro, non a caso oltretutto prodotto dal Mego, You'll Be Safe Forever, che in realtà è il penultimo lavoro, ne ha fatto un altro successivo sempre per la Mego, devo dire che sicuramente si è mosso qualcosa in termini di interesse sul suono. Fammi fare un saluto a Luis Sherman, che tra l'altro collabora con Mark Van Hoen da qualche anno e negli ultimi dischi, e tra l'altro diciamo che fa spostare anche proprio il suono, che è senz'altro più interessante negli ultimi lavori rispetto a Locust, dove tentava, insomma, una sperimentazione anche con il cantato, che noi, insomma, consideriamo, insomma, limitata per molti versi. Invece certo, l'ultimo Locust con Luis Sherman ci sembra senz'altro più interessante. Infatti mi hai tolto le parole di bocca, anche perché effettivamente da quando è entrato Sherman c'è stato un cambiamento sull'aspetto sonoro. Di Mark Van Hoen, insomma, questo è il nome di Locust, bravo, perfetto. Andiamo dunque a sentirci questo brano, che è l'ultimo brano di questo disco, Corporal Genesis. Salutiamo. Salutiamo, vi diamo la buonanotte, la buona mattina per domani, il buon pomeriggio per dopodomani. Senti, rimandiamo al blog, sia per 451 intersezioni del lunedì dalle 20. E sì, tra poco, insomma, tra 5 minuti troverete la trasmissione caricata. Infatti, sia questa che l'altra. Come infatti? Beh, sì. Sì. Sì. Sì, beh, nella nostra mente, nella nostra immaginazione. La carichiamo mentalmente. Anche quello è un eco dal passato, certo. O un eco dal delirio. Andiamo proprio in delay, insomma. Sì, sì. Delay, nella nostra mente c'è già, insomma. Sì, poi anche se non quello, c'è. Quello finale, che poi andiamo su feedback definitivo, insomma. Certo, ma cioè, tutto è relativo, anche il tempo. Sì, no, no, è quello senz'altro. Anche Renzi è relativo, ma sì, ma speriamo, insomma, soprattutto con i danni che sta facendo, fosse assoluto e basta, insomma, sarebbe ancora più preoccupante la faccenda. E vi salutiamo, quindi vi rimandiamo a lunedì per 451 intersezioni, per, a mercoledì prossimo per 451 frammenti sonori. Ecco, poi mamma mia, questa è bellissima, ci dai tempo, è la pernacchiona c'è digitale. Una pernacchia, non so se voi la sentite, ma c'è proprio una pernacchia spettacolare, c'è proprio un feedback. Questo è il feedback finale. Questo è il feedback finale. Vi salutiamo, ciao.